è tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E siamo entrati nella diretta di Ristorante Convento perché è arrivata un ospite importantissima. Dillo tu come ti chiami? Grazie dell'importantissima, sono un po' più modesta, io no, normale, Barbara De Santi, solo che mi conoscono un po' di persone, ecco, perché non sono all'Onatto, ecco. Esatto. A parte che all'Onatto, sì, io ho fatto il mio primo anno di insegnamento quando sono stata immessa in ruolo nella scuola. Andiamo indietro di 18 anni fa, io ho insegnato qua alle scuole medie di L'Onatto, quindi sono di casa. Ah, sei di casa? Ma di casa, ma una cosa, perché noi stavamo facendo due chiacchiere così fuori onda e hai più facce, nel senso che sei una maestra, una prof. Qui non sono modesta per niente, qui ci tengo a dire che sono una prof. Sei una prof, giusto? Mm? Sì. Sei una scrittrice? Sì. Giusto? E hai partecipato anche a una trasmissione televisiva? Sì, sì, del 2011 sono stata ospite da Maria De Filippo, Uomini e Donne. Ed eri la cacciatrice o la... cioè... Allora, io facevo parte del gruppo over, di quelli più vecchietti, diciamo, e non c'era un tronista, c'era corteggiati e corteggiatrici, cioè ci corteggiavamo a vicenda, ecco, funziona così. Ah, funziona così, quindi... però tutti ti corteggiavano, dai, no? Sì? Beh, ma sì, ero portata, devo dire, insomma, che piacevo. No, noi DJ Gale la stiamo vedendo dal vivo ed è... Ciao ascoltatori, sono DJ Gale, sono qui a bocca aperta, sotto la mascherina non si vede, ma sono veramente stupito a bocca aperta di avere Barbara De Santi questa sera con noi. Devo dire che è innanzitutto una donna bellissima, e questo dobbiamo dirlo. La mascherina mi aiuta, copre metà faccia. Barbara, credimi che così non è. Esatto. E poi è frizzante e ha mille cose da raccontare. Ne abbiamo identificata una, ma credetemi, potremmo fare 8 trasmissioni con Barbara, e potrebbe raccontare ogni volta una Barbara diversa. Esatto, è quello che intendevo questo, dire. Cioè, veramente. Mille sfaccettature. Sì, sì, sì, sì. Però Barbara questa sera avrebbe piacere di raccontarci di una sua creazione. Sì. Cos'è successo? C'è stato questo blocco, questo lockdown, e Barbara ha pensato bene di fare, ce lo dice lei, di ripescare dal mio cassetto delle vecchie pagine che avevo cominciato a scrivere della mia vita. Sì. Ti parlo di 8-9 anni fa. Ogni fallimento sentimentale lo volevo scrivere, cioè deficiente che non sono stata, come hai fatto a frequentare un uomo del genere, e scrivevo, cioè praticamente pagine sui miei fallimenti in amore. Cioè, in pratica, tutte le volte che andava male una storia, tu prendevi l'appunto. Sì, per far tesoro, per non ripetere gli stessi errori e non rincontrare quella tipologia di uomo, hai capito? Ma se hai preso tanti appunti, vuol dire che ci sei cascato tante volte. Ma ciao, ma continua a caderci. Infatti, secondo me, adesso il mio libro è uscito, ho tirato fuori queste pagine per pubblicarle proprio, renderle note al pubblico, è uscito un mio libro durante il lockdown. Ma adesso sto già pensando a come fare o un restyling dello stesso libro oppure pubblicarne un altro, perché continuano ad accumularsi i miei fallimenti. Ho 51 anni, ma credete, come 51? Non ho ancora imparato. Come 51? 51, non ho ancora imparato la lezione. No. Attenzione, allora il radio non si può vedere, ma già solo sentendo la voce si capisce che ci sta mentendo praticamente. Sì, è impossibile, sì, sì, che abbia 51 anni. Sì, ho la voce da bambina, non perché può. Non fumo, non mi drogo, faccio una vita sana, sembro una bimba dalla voce. No, però, secondo me è un dono di natura, no, di segale, cioè, perché noi che la vediamo è... Perfetto. Ne abbiamo 20 in meno quasi. Sì, sì, sì. È sempre la mascherina, copre la faccia cadendo ormai. Comunque io credo che in questo momento moltissimi ascoltatori e ascoltatrici invidieranno la capacità di Barbara di riuscire a concretizzare un sogno che hanno moltissimi, che abbiamo moltissimi di noi. Il sogno di avere nel cassetto un qualcosa da raccontare e riuscire poi a farlo, perché tutti noi abbiamo dei sogni che abbiamo lì nel cassetto, che vogliamo realizzare, concretizzare, e lei è riuscita a farlo. Questo, ma veramente... grazie a un incontro fortuito con un mio ex fidanzato. Ma vedi che serve una volta di ex? Vedi che a volte non tutto il male Si è sentito attaccato da questa, è venuto a conoscenza di questa situazione. Allora, e dice, aspetta, voglio difendermi. Non so come, sono andata a una festa, l'ho rincontrato, fate conto che lui mi aveva lasciato per andare insieme a una mia amica, l'ho scoperto proprio sul luogo, si guarda lì quelle cose, sono stata molto male, vabbè, lo rincontro a una festa, io col tempo ho perdonato, poi dimentico. e mi dice del suo nuovo, della sua nuova attività. L'ho lasciato che gestiva dei siti web, lo ritrovo che è il titolare del sito Escort Advisor. Non so se lo conoscete. Ci manca. Non andiamo con le automobili? No, come c'è Ford Escort, come c'è Trip Advisor, lui ha preso il format di Trip Advisor per le recensioni degli alberghi, degli hotel, dei ristoranti, sì, e va a recensire le Escort, cioè i clienti recensiscono le Escort. Trip Advisor. Escort Advisor si chiama. Ce lo segniamo, io direi. Andiamo a vedere le recensioni. Non siete preparati su questo? No, siamo un po'. Però ci hai dato un'altra. Beh, a 2 milioni di utenze. A 2 milioni, noi siamo fuori dai 2 milioni. Io vorrei sapere quanto tempo abbiamo a disposizione per questa intervista, perché si sta facendo veramente molto, molto interessante. Perciò allora, hai incontrato questo tuo ex? Mi parli di questa sua attività, dico bravo, sei geniale, perché l'ho trovata geniale questa idea. Certo. Sì. E dico, posso parlare con qualche escort? Perché ho detto io continuo a sbagliare con gli uomini, evidentemente ho qualcosa che devo attingere da loro, voglio parlare, voglio sentire un attimo per come fanno a lavorare così tanto. Cioè io non devo lavorare con un uomo, voglio solo tenerlo per me. Ma perché gli uomini vanno da letto, anche uomini sposati, fidanzati, insomma, va bene.